Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Le piazze, i monumenti, le biblioteche, le scuole della propria città sono quegli elementi di identità e di appartenenza ad una comunità nei quali un po' tutti ci riconosciamo e sono appunto i luoghi in cui la comunità locale si incontra, dà vita alle attività che caratterizzano un po' tutte le realtà sociali. Pensate, per fare un esempio banale ma significativo, al piccolo teatro dove svolge la sua attività il gruppo teatrale locale, ce n'è uno quasi in tutti i paesi, alla palestra dove si allena la squadra di pallavolo del posto. Ora domandatevi che cosa succede quando tutto questo viene spazzato via in pochi secondi da un terremoto, esattamente come è successo in Emilia, dove però anche da questo punto di vista sta scattando una forma speciale, interessante, di solidarietà, con una iniziativa che arriva da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che nasce all'interno dell'Assemblea Internazionale delle Città Slow e di cui ci parla la nostra Chiara Albicocco. Sentiamo. Qui con noi stasera c'è il sindaco di Novellara, un paese in provincia di Reggio Emilia che in questi giorni è stato visitato da più di 150 sindaci provenienti da tutto il mondo. Si è tenuta infatti la quinta Assemblea Internazionale delle Città Slow. In quell'occasione si è firmato anche un patto di collaborazione con il sindaco di Mirandola. Lo sappiamo, è uno dei comuni più colpiti dal recente terremoto in Emilia. Per pensare anche ad una ricostruzione culturale. Allora, cominciamo a dare il benvenuto a Raul Dauli, che è appunto il sindaco di Novellara. Buonasera. Buonasera, grazie di questa opportunità. Dunque, dicevamo, le città slow, le città lente, portano avanti da anni una strategia un po' basata sulle politiche sociali, sulla cultura, sulla valorizzazione del territorio. È in questo contesto, insomma, che si è discusso in questi giorni. Sì, è stata un'assemblea internazionale, sono stati presenti più di 180 sindaci da tutto il mondo, non solo italiani, europei, ma dalla Cina, Stati Uniti, il Canada, il Sudafrica, insomma da tutto il mondo. È una rete nel dibattito, no, della globalizzazione, per porre delle istanze che invece vengono dai territori, vicino ai cittadini, vicino a uno sviluppo sostenibile. Infatti, quali sono i capisaldi delle città cosiddette lente? È un movimento di città che cerca di mettere a sistema delle politiche, degli indicatori anche di politica riferibili al buon vivere, a una buona urbanistica, alle relazioni di vicinato, alla valorizzazione di un certo tipo di economia vicino anche alle persone, quindi un'agricoltura sana, buona e giusta, no? Ci richiamiamo anche alle parole di Petrini, di Slow Food, ma poi essendo sindaci le decliniamo un po' in tutte le politiche, quindi la cultura, i servizi sociali, il welfare. E in questo contesto era necessario pensare anche appunto a chi in questo momento è in condizioni di difficoltà, ai comuni che sono vicini a voi, e quindi avete pensato a un patto di collaborazione per ricostruire, dite voi, in maniera culturale. Sì, essendo una rete che ha quindi questa estensione, capita di aver fatto anche esperienze, proprio di aver messo l'accento in questo tipo di progettazione su eventi di calamità naturale. Penso ad esempio l'anno scorso allo tsunami in Giappone, no? Lì c'erano alcuni comuni di città slow ed è stata un'occasione anche per cercare di individuare dei punti di ricostruzione tenendo conto dei nuovi criteri della sostenibilità, della qualità della vita, degli spazi pubblici di qualità, della bioecoedilizia, quindi tutti questi aspetti. C'è una particolarità che io ho posto, insomma, insieme al sindaco di Mirandola nelle nostre conversazioni, e che è ad esempio dopo il terremoto, questa zona così colpita tragicamente dal terremoto, che in un attimo ha cancellato dei momenti di riconoscimento identitario, la piazza, la biblioteca, il circolo culturale, il teatro. Ecco, questa assenza di luoghi fisici in un qualche modo, oltre alla paura che ancora la gente ha dentro, ha inclinato questo senso di appartenenza, quindi è importante ricostruire con gli ingegneri, con le gru, però c'è anche una ricostruzione più invisibile che è quell'humus sociale e culturale che tiene compatta e unita una società. Quindi questo patto di ricostruzione culturale è un programma di 3 anni dove andiamo a individuare azioni mirate in campo culturale, in campo sociale, sulla scuola, sui giovani, sugli eventi culturali, sui dibattiti, dare spazio alle associazioni, cioè ripartire dalla comunità. La comunità è quindi stata la parola d'ordine di questi tre giorni per individuare delle azioni concrete di ricostruzione anche in campo culturale. Sì, ci fa qualche esempio di quelli che sono gli interventi a cui avete pensato e di cui avete discusso? Beh, in questa prima fase intanto c'è una disponibilità, una ricerca di spazi. Novellara ha qualche spazio in più perché a noi l'onda del terremoto ha creato dei danni ma non delle inagibilità, per cui il nostro teatro è a disposizione, i nostri luoghi sono a disposizione, cerchiamo di fare rete tra associazioni che promuovono temi in campo culturale, ricreativo, sportivo, e quindi è intanto una prima fase di conoscenza dei soggetti pubblici, privato sociale, e poi alcuni progetti che usciranno anche da questa prima fase verso anche un turismo sostenibile, un turismo slow appunto, è così importante anche per quella cosiddetta Italia minore, ma che poi minore non è, certo, nel suo potenziale. Ecco, quindi cercare di ricostruire un pochino la trama sociale anche prestando in qualche modo i luoghi della cultura, della socialità, di modo che le persone, ad esempio, più colpite, che per ora non possono usufruire delle strutture nel proprio territorio, possano comunque incontrarsi, condividere e cercare di ricostruire una vita normale, insomma. Esattamente, è anche molto di impatto, molto psicologico, perché la reazione che ancora persiste in una buona parte uno scoramento, no? Se ho l'energia vado ad abitare da un'altra parte, costruire una progettualità condivisa, un'immagine di futuro comune di questo territorio diventa un aggregante necessario. Va bene, grazie davvero per la testimonianza, buonissimo lavoro per i prossimi 3 anni. Grazie a voi. Anche per stasera abbiamo concluso, appuntamento a domani.